Mi fermi bella giovane in tuta di giaguaro e mi chiedi se ti compro qualche cosa. Io sono un uomo semplice, non vedo la malizia, ma sospetto non si tratti di una rosa. Però ti invito a stare qui con me per una notte o una vita intera. Mi guardi senza il minimo rispetto, mi rispondi no, lo so, non sei sincera. Non mi dire sempre no, non mi fare disperare. Con il tuo modo di fare, donna instabile, è così facile perdersi e ritrovarsi ancora. Non mi dire sempre no, non mi fare disperare. Con il tuo modo di fare, donna instabile, è così facile perdersi e ritrovarsi ancora. Guardi troppo a lungo con la gonna troppo corta e mi chiedi se ti presto un po' d'amore. Io sono nato stupido e non vedo il paradosso di prestare quello che non posso dare. Però ti invito a stare qui con me per una birra o una vita intera. Mi guardi dietro il tuo bicchiere bello pieno, mi rispondi non lo so, non sei sincera. Non mi dire sempre no, non mi fare disperare. Con il tuo modo di fare, donna instabile, è così facile perdersi e ritrovarsi ancora. Non mi dire sempre no, non mi fare disperare. Con il tuo modo di fare, donna instabile, è così facile perdersi e ritrovarsi ancora. Cane con la coda tra le gambe, mi domando se son diventato grande. Ho sempre il fiato corto, ma non vedo l'ironia. Il tempo passa, io non me ne sono accorto. Però ti invito a stare qui con me per una pizza o una vita intera. Mi guardi senza il solito appetito, mi rispondi non lo so, non sei sincera. Non mi dire sempre no, non mi fare disperare. Con il tuo modo di fare, donna instabile, è così facile perdersi e ritrovarsi ancora. Non mi dire sempre no, non mi fare disperare. Con il tuo modo di fare, donna instabile, è così facile perdersi e ritrovarsi ancora. Non mi dire sempre no, non mi dire sempre no.